Per cui il fatto di lasciare libere le wifi nei bar, nei ristoranti, così, perché è una cosa praticamente medievale e quindi si limita tantissimo la connettività da cui parte tutto, insomma. Poi ci sono problemi più alla radice burocratici come agevolazioni per aprire un'azienda. Il costo di un SRL è tipo 7-10 volte tanto quello di aprire una LTD in Inghilterra o una Inc. in America. E anche quello è un problema. E si conclude oggi il secondo sondaggio estivo dello spazio Intern Active, sondaggio interamente rivolto ai nostri giovani ascoltatori che ancora vivono in Italia. Questa è l'ultima settimana a disposizione per dire la vostra. La domanda è: avete colto negli ultimi mesi segnali incoraggianti a restare e a provarci nel bel paese? Vale ancora la pena scommettere sull'Italia oppure è meglio comunque emigrare? Scriveteci la vostra preferenza se pensate di restare o andarvene, accompagnata da nome, età, professione, città di residenza, più eventuali commenti o anche riflessioni a giovanitalenti@radio24.it. Nelle prossime settimane, con la ripresa della programmazione autunnale di Giovani Talenti, vi racconteremo gli esiti di questa e della precedente consultazione on air rivolta ai nostri giovani espatriati. Stay tuned! Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Proseguiamo oggi questa puntata d'eccezione, l'ultima della serie estiva della trasmissione, con un'altra incredibile storia dalla Silicon Valley. La storia di Simone Morellato, 34enne ingegnere al lavoro alla multinazionale Cisco. Questo almeno è il suo lavoro ufficiale. Dietro le quinte Simone è infatti diventato pure imprenditore, aprendo una propria azienda di produzione di applicazioni per iPhone, la Just Apps. Impresa che va a gonfie vele, aggiungiamo. Abbiamo incontrato Simone lo scorso gennaio. Restate all'ascolto, vi porteremo anche un ospite d'eccezione. Nome: Simone. Cognome: Morellato. Età: 34 anni. Città di origine: Trevignano, paese in provincia di Treviso. Studi: ingegneria informatica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2000. Per andare dove? In Silicon Valley. Perché? Stage con la mia laurea in ingegneria informatica. Quale lavoro svolge attualmente? Ho la mia azienda di iPhone Apps e lavoro in marketing per Cisco. Dove? Sempre in Silicon Valley. Tornerai? Per ora no, però magari in futuro sì. La carica di Bruce Springsteen, The Boss, per introdurre la storia di Simone Morellato, un altro dei nostri giovani brillanti talenti al lavoro nella Silicon Valley. Ricorderete tutti come a fine ottobre abbiamo ospitato proprio su queste frequenze la storia dei giovani fondatori del sito Mashape che in California hanno potuto dare vita al loro progetto. Oggi torniamo sul luogo del delitto per parlarvi di un'altra bella storia, quella appunto di Simone. Simone, nell'email che hai scritto a giovanitalenti@radio24.it fai una riflessione molto interessante. Qui in California nessuno ha problemi a lavorare anche 10 ore al giorno perché si fanno cose interessanti, uno vede il suo contributo diretto al successo dell'azienda e l'azienda ti ricompensa pure, non sembra di lavorare per arricchire qualcun altro. Anche se l'azienda è grossa, la singola persona può fare la differenza e si è valorizzati per quello. Allora Simone, è questo secondo te che abbiamo perso in Italia, il far sentire i giovani talenti come una risorsa, come i protagonisti del loro lavoro? Sì, penso sia proprio quello. In Italia il talento e la personalità vengono nascosti. Molto spesso non ti viene data visibilità e la possibilità di emergere. Qui anche uno studente che è qui a fare la tesi ha la possibilità di presentare in prima persona il proprio lavoro anche al capo della compagnia. Qui tutto è basato sui meriti, sulla voglia di fare, sul mettersi in gioco e sull'intraprendere nuove sfide. Partiamo dai tuoi studi, allora ti iscrivi in ingegneria all'Università degli Studi di Padova, perché questa scelta? All'epoca ero affascinato dalle nuove tecnologie, soprattutto dall'informatica. L'Università di Padova era una buonissima reputazione, era anche relativamente vicina a casa. Infatti vengo da una famiglia un po' modesta e non mi potevo permettermi di spostarmi e studiare in altra città e quindi ho cercato un'università vicina e sono stato fortunato che appunto Padova era una buonissima università italiana. E quale bilancio dai di quell'esperienza? Sicuramente è stata un'esperienza direi ottima. L'università italiana mi ha preparato molto molto bene. Già nel periodo di tesi avvii uno stage in un'azienda informatica di Treviso lavorando gratis, precisi con ironia anche un po' amara, su un progetto software. Ma non è che in Italia qualcuno si sta un po' troppo arricchendo anche con questi stage gratuiti che spesso nascondono del vero e proprio lavoro non retribuito? Un po' sfruttano questa manodopera specializzata e a bassissimo costo. Il destino ti porta a incontrare un professore del Politecnico di Torino. L'istinto ti fa compiere una mossa che cambierà la tua vita e sapendo infatti che lavora part-time per Cisco, gli lasci il curriculum sperando che possa aiutarti a ottenere uno stage. Passa poco tempo e cosa accade? Mi arriva la proposta proposta di stage in Cisco. Inizialmente devo logicamente mandare il mio curriculum, fare diversi colloqui telefonici, ma tutto va bene. Dopo qualche mese mi arriva il contratto da stagista. La cosa bella, vedo volo pagato, casa, macchina pagata per 3 mesi e mi danno pure lo stipendio. E quando vedo la cifra è meglio di quello che avrei mai sognato in Italia da ingegnere affermato. Sì, diciamo che è qualcosa di totalmente inaspettato, no? Ma sono loro che sono dei Babbi Natale oppure è così che funziona nel mondo? Sicuramente in America ci sono Babbi Natale, anzi, soprattutto in aziende come Cisco, tutto deve avere un tornaconto. Però quello che vedo è che l'America ha capito che per poter guadagnare bisogna prima investire. Investire proprio anche nei giovani. Infatti, se tu vedi, molte delle aziende in Silicon Valley, anche le più successful come Facebook, Google, sono tutte aziende lanciate e tuttora dirette da giovani. E questo è molto importante. Continuiamo a ricordarlo. Tu cogli l'occasione al volo, saluti tutti. E com'è stato l'impatto, ecco, in breve però, con la realtà californiana? Visto, abitazione, vita sociale? All'inizio è stato un po' traumatico. Sicuramente è stato un percorso in salita. Non sapevo niente di niente, era un mondo completamente differente. Tante cose da organizzare, tante cose da fare, tante faccende burocratiche da spiegare, conto in banca, patente, la ricerca della casa, nuove amicizie, l'inserimento nel mondo del lavoro, rapporti con i colleghi provenienti da tutte le parti del mondo e anche allontananza dalla famiglia, dalla fidanzata. Comunque, sai come si dice, quello che non ti uccide tira forza. Al lavoro scopri un altro mondo, da quello fantozziano di un'Italia dove si aspettano le 5 del pomeriggio per scappare a quello americano dove domina l'entusiasmo. Faccelo capire anche con qualche aneddoto. Qua tutti i dipendenti si sentono parte dell'azienda. Si sa chiaramente perché si sta lavorando, che effetti ha il tuo lavoro e come influenza l'azienda intera. L'orario di lavoro è flessibile, nessuno ti controlla quando entri o quando esci, però tutti si aspettano che quando c'è bisogno tu ci sia. L'azienda e i colleghi contano su di te. In diverse occasioni è appunto capitato dove siamo rimasti fino a notte tarda per risolvere un problema e c'è pure gente che ha dormito in azienda, sotto il tavolo, e alla mattina era pronta a lavorare ancora. Perché ci credeva. Di cosa ti occupi esattamente a Cisco e soprattutto com'è stata anche la tua progressione di carriera? Basata sul merito oppure sulla capacità di essere buono e mansueto e servizievole con i capi? In questo momento mi occupo di technical marketing, che è una figura un po' strana. In pratica vuol dire è l'arte di promuovere un prodotto e una tecnologia a un pubblico tecnicamente istruito. Però ho cominciato 10 anni fa nel gruppo di controllo qualità, poi ho fatto failure analysis, poi sono ritornato nel gruppo di controllo qualità come manager e ora sto un po' cambiando e sto facendo marketing. Fra tutti i cambiamenti e le progressioni di carriera sono stati basati sul merito e sul coraggio di intraprendere sempre nuove sfide. Qui in Silicon Valley è molto facile, se uno vuole, cambiare e progredire. Mobilità lavorativa e meritocrazia, questa è la capacità degli Stati Uniti di valorizzare i giovani talenti, ricordiamolo. La cosa che colpisce maggiormente leggendo la tua storia è che tu, pur lavorando come dipendente, hai fondato una tua azienda, Just Apps, che produce applicazioni per iPhone. Andiamo con ordine, come nasce questa idea e come la realizzi? L'idea nasce dalla mia prima app, che è tuttora una delle più vendute, che si chiama Easy Search. L'idea era quella di creare un'interfaccia più facile e intuitiva ai servizi di Google. È stato solo appunto con l'avvento dell'iPhone e dell'Apple Store che questa mia idea ha trovato il suo naturale mezzo di realizzazione e vendita. Dopo appunto il successo di Easy Search abbiamo deciso di fondare l'azienda e lanciare pure altre app. Comunque per ora l'azienda è ancora piccola, ma continuiamo ad espanderci e produrre applicazioni sempre migliori e divertenti. In bocca al lupo, Simone. Ci raggiungerà in linea Silvano Gai, Cisco Fellow da 14 anni in Silicon Valley, uno degli italiani più importanti all'interno del colosso americano. Gai, allora qual è il segreto della Silicon Valley che non solo consente ma stimola anche i più talentuosi a mettersi in gioco personalmente, a rischiare persino quando si ha un lavoro già sicuro? La Silicon Valley è industrialmente molto molto attiva. È un po' la punta di diamante dell'industria, specialmente informatica e delle telecomunicazioni americana. E quindi ci sono moltissime possibilità per i giovani di inserirsi all'interno di questa industria. Essendo questa industria molto innovativa, cerca disperatamente giovani che abbiano voglia di fare innovazione e di mettersi a lavorare molto seriamente su aspetti veramente innovativi. E li premia se meritano, vero? Li premia, ma li premia non in una maniera esagerata, li premia con un proseguimento di carriera abbastanza naturale. E questo in Italia secondo lei avviene? Secondo me avveniva. L'Italia si è molto deindustrializzata. Io penso che il problema sia per il giovane italiano non sia tanto che non si trova lavoro, magari anche quello, ma non si trova più lavoro nell'industria, perché ovviamente l'industria informatica e l'industria delle telecomunicazioni in Italia ormai praticamente non ce n'è più. Simone, domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? Per quanto riguarda l'innovazione, vedo che c'è anche in Italia, ci sono tantissime aziende innovative, però sono un po' più di piccole dimensioni, tante ancora gestite come aziende artigianali, mentre in America uno degli obiettivi principali è la crescita costante, la ricerca è costante raddoppio degli utili. In Italia questa ricerca appunto a monetizzare le idee e l'innovazione un po' manca. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it, le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. E finisce qui anche l'ultima puntata della serie estiva di Giovani Talenti. Aspetto i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 con la nuova serie autunnale del nostro programma. Nuove storie di espatrio e di successo, nuovi paesi, nuove professioni, nuovi ospiti. Ancora tanti giovani talenti da conoscere, cui l'Italia dovrà affidarsi se vorrà prendere l'ultimo imperdibile treno per la modernizzazione, diventando finalmente un paese per giovani e speriamo anche più meritocratico. A sabato, sempre su Radio 24, un saluto e un augurio di buona fine estate da Sergio Nava.